Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Il consorzio Innova Friuli Venezia Giulia ha presentato a Cividale del Friuli poche settimane fa i risultati dei lavori di recupero della facciata della chiesa Santa Maria Annunciata, progettata da Gio Ponti, dove è stato applicato un rivestimento protettivo sperimentale, una sorta di vernice nanotecnologica che proteggerà il gruppo scultorio in metallo dell'Annunciazione. Si tratta di uno dei risultati del progetto Nanocot, voluto dalla Regione Friuli per mappare le potenzialità delle nanotecnologie in vari ambiti, tra cui appunto il recupero e la conservazione dei beni culturali. Ne parliamo con la professoressa Maria Laura Santarelli, che è direttrice del Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico-Architettonico, il CISTEC, dell'Università della Sapienza. Buonasera, buonasera professoressa. Buonasera a tutti. Dunque Santarelli, prima di parlare di questi nuovi rivestimenti nanotecnologici che avete messo a punto, partiamo un po' dallo stato dell'arte, perché si usano già, diciamo, le nanotecnologie per procedere beni artistici? Sì, le nanotecnologie sono ormai abbastanza largamente diffuse nel settore della conservazione dei beni culturali. Ci sono prodotti che ormai i restauratori conoscono molto bene e che applicano senza alcuna difficoltà. Tra alcuni prodotti sicuramente si sono fatte largo dei prodotti a base di biossido di titanio. Sì. Che hanno tra le caratteristiche di essere protettivi, di aumentare le caratteristiche di idrorepellenza, ma anche quello di autopulizia e di abbattimento di inquinanti grazie all'interazione con parte della luce solare. Con gli ultravioletti, questi ossidi di titanio in particolare reagiscono con le molecole organiche, sostanzialmente distruggendole. Tanto è vero che questi materiali si usano addirittura in architettura in qualche caso ormai, no? Già nei manufatti nuovi anche. Sì, anche nei manufatti nuovi vengono utilizzati per come vernici pittoriche o con proprio direttamente nel cemento sostanzialmente, cemento degli intonaci, diciamo, di copertura. In modo che rimangano più puliti, contribuiscono a ripulire l'atmosfera dagli inquinanti. E allora veniamo a questi nuovi rivestimenti nanotecnologici. Che cosa hanno di speciale, di diverso rispetto a queste nanotecnologie già oggi utilizzate? La diversità è, ad esempio, nei prodotti a base di ossido di titanio. L'ossido di titanio è attivo esclusivamente attraverso la radiazione ultravioletta, come abbiamo detto. Noi abbiamo trovato un metodo di modificare questo biossido di titanio e renderlo così attivo nel visibile, cioè quello che è la parte dello spettro solare più comune, più diffusa, più efficiente. E soprattutto quella che c'è anche nell'illuminazione interna. Esatto. E questo è il problema, perché gli UV fuori ci sono, perché il sole ne manda, esatto. Ci abbronziamo infatti a sufficienza, ma di solito evitiamo di fare delle lampade che ci abbronzino, no? Anzi, è vietato dalla legge. Quindi se questa funzione negli interni, servono dei materiali diversi, che sono quelli che avete sviluppato voi. Esattamente, dove serve una normale lampadina che si usa ormai in tutte le case praticamente, hanno l'azione è abbastanza semplice, basta accendere la luce del proprio appartamento, della propria stanza, per poter attivare queste vernici. Mi viene da dire, ma non sarebbe utile per abbattere gli inquinanti dentro casa, visto che l'aria di casa è nettamente peggio di quella esterna di solito? Infatti si sta lavorando proprio per questo. Ah, bene. Per ridurre l'inquinamento non solo fuori, ma a maggior ragione all'interno. Anche all'interno, oltre a proteggere magari qualche quadro, potremmo proteggere anche i nostri polmoni. A proposito, queste tecnologie, oggi abbiamo parlato di statue, di oggetti in metallo, si pensa di applicarle anche a oggetti più delicati? Io posso immaginare manufatti dal papiro addirittura o al quadro. Beh, diciamo che questi a base di biossido di titanio no, perché sarebbero troppo reattivi per quelle superfici troppo delicate. I coating, quelli a base di ossido di zinco o come il nostro prodotto che è anche antisalino in contemporanea, perché la novità sta proprio nella combinazione dei due effetti, praticamente questi invece potrebbero essere utilizzati anche su manufatti più sensibili. E va bene, poi me ne prenderò un barilotto per verniciarci casa mia a questo punto. Va bene. Va bene, grazie professoressa Maria Laura Santarelli. Grazie a lei, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.